buon rientro e tante cose belle. Adesso già mi faccio sentire, dai, piano piano. Abbiate un po' di pazienza, perché ancora sono, me devo riprendere, però già mi faccio sentire, dai. Avanti, tanto per i saluti a Domenico, se no perdiamo. Positivo, ciao Domenico, si considera più dopo quando rientri. Cappalocero, si è accoppiato, dacci la conferma, Domenico. Ehi, hey, Adome, io ti ho sentito, d'accordo, allora ti aggiorni più tardi con Antonio, va bene, un abbraccio e ci sentiamo le prossimine, KK, vai Antonio. KK, dai, anche io l'ho sentito, grazie di salute, grazie di tutto, fatti un buon trabacco, un buon rientro, un buon tutto, e ce la riascoltiamo più dopo se coincide, KK. Gaia, si è già fatto un bel lavoro, dai. Non l'avevo mai sentito dal secondo arder, è lontanino là qua, lontanino, già va bene. E allora, cazzo, gente, di tu, che parenti, a tu? Non so se l'hai visto, la voi, cazzo, un attimo non puntato, lo gudo, cazzo, mi c'è qui, c'è nello gudo. Si è abbronzato lo gudo, va bene. di diacoli, giusto per c'è stata la natura e si sono portate soldi. No, non è importante, c'è il botto. Allora quella è la cosa importante. Cavagava, no, bella, veramente ha fatto un ottimo lavoro. Era grande, non c'è problema. Vabbè, lui ha avuto sempre un'ottima radio. Rimane il fatto che chiaramente con quella di Fortuna aveva poca potenza, non aveva molta radio, e quindi arrivava sino al primo albero e poi non lo sentivano più. Adesso è già oltre la piana di Ossiri, arriva ancora, perciò non c'è problema. E io devo dire, a proposito, mi dice, ma non lo trovo più nessuno qua su 10 in mia assenza. Guarda Claudio, ti posso dire la verità, era un mortorio. Bubu, neanche Sandro, Luca, nessuno, cioè Benito, tutto eso, non c'era attività là. No, qualche volta travassato e qualche volta è entrato anche Luca, la verità non devo dire di no, però del resto qualche volta è entrato anche Antonio Pompolio, il leoncino e sempre nel casino con queste antenne ovunque. Ma guarda, mortorio totale, grazie, che non veniva bene a dirlo. Infatti io ho detto, quindi non che bubù. E vabbè, se non fate attività, che non tenete il canale occupato, non si può pretendere la gente di salutare. Poi vabbè, ci sono gli altri canali che sono impegnati da altre persone, quindi giustamente sono in radio di accendere. Solo che, come ho sempre detto, bisogna fare ruote e far sì che si parli in radio, perché noi la gente può sapere che tizio che è sempre lì all'ascolto. Se non tende le volte non entra nessuno. Capito? Poi tu che sei in una posizione alta, trascini la gente, cioè se c'è gente da fuori già ti sente entra. E se li senti in domenico, attento, pirata della strada. Io non lo sento più. No, neanche io, dai. E beh, adesso è fuori portata, ma è abbastanza comprensibile comunque, da prima a oggi ha migliorato, E già aveva migliorato, adesso abbiamo sentito dal secondo Ardara, lì dove c'è il fornitore, da mese Rios, e poi si è allontanato oltre la piana di Ortieri, praticamente sta già imboccando Oschiri, quindi va bene, ottimo per la truppa, tenendo conto che quella piana lì è molto difficile per Sassari, è molto difficile. Sono zone che possiamo sentire io e tu da qua in alto, gli altri dalle zone basse se la scordano quella zona, non ve ne fa nessuno, perché è molto molto difficile, a volte ha difficoltà ascoltare i radioamatori anche in HF o in VNU, perché c'è un buco, c'è una vallata ed è molto molto difficile, capito? Eia, beh, in effetti è così, che la si è fatta? Ma io qua in un orologio ho le 8:20, nell'altro ho le 8:17, quindi diciamo che abbiamo passato le 8:15, va? Allora bisogna fare la carichetta. Ok Claudio, se ne hai voglia a più dopo, se no ritiriti super salutato, io carico e niente, e poi ci aggiorneremo in settimana, non c'è problema. Iato, il piacere è tutto mio per aver sentito, saluto ancora Domenico se mi ascolta, Luca in QRX. E guarda, io lascio tutto acceso qua perché mi hanno veramente bisogno di prendere un po' di calore sta radio. Sono settimane spente. E niente. Quindi qua è tutto acceso, se ti va fai un colpo importante, già conosco il bip e ti rispondo come hai fatto poco fa. Anch'io vado a mangiare un boccone, e poi se entri facciamo due chiacchiere. se non entri ritieniti anche tu salutato. È buona epifania per domani allora, questa te la devo. Ok, da tutto il vostro cambiato, come se siete a voglia, si c'entra, là, non c'è problema. Buona carica per il momento, buon tutto, vabbè, e se coincide a più dopo, dai. KKK, miau, miau, miau. Ok, ok, ok, ciao, ciao, Claudio. Ciao, a dopo.